Job 24. Bentrovati a un nuovo appuntamento con Job 24. Oggi, come promesso, forniamo una bussola ai lavoratori più giovani che sono alla ricerca del primo impiego. Lo facciamo con Luisa Dani, consulente di orientamento e di carriera, con la quale il 22 ottobre scorso abbiamo già dato delle indicazioni, però in quel caso le persone già mature che si trovano per scelta o per forza a cercare un nuovo lavoro. Luisa Dani ha tra l'altro appena pubblicato per giunti il Sole 24 Ore la guida a promuovere se stessi, per cui cerchiamo di carpirle qualche suggerimento. Insomma, cosa devono fare i giovani alla ricerca del lavoro come prima mossa? Sentiamo. Beh, innanzitutto riflettere sul tipo di preparazione formativa o universitaria che si è avuto e dunque capire quali sono le professioni che automaticamente sono lo sbocco naturale rispetto agli studi fatti. Dopodiché cercare di capire al di là del titolo del mestiere che cosa si nasconde, perché a volte il titolo di un mestiere non ci dice che cos'è la quotidianità e spesso si corre il rischio di fare delle confusioni piuttosto importanti fra l'idea che si potrebbe avere di un certo mestiere e invece la sua quotidianità. E quindi è importante interrogarsi su che cosa c'è dentro proprio l'attività quotidiana. Come fare? Anche qua per un giovane non è semplice. Io suggerisco sempre un sito che secondo me è molto interessante e ben fatto e può essere un ottimo strumento di prima valutazione, che è quello ISFOL Orienta Online. Ha un indirizzo web piuttosto lungo, per cui suggerisco di cercarlo con un motore di ricerca. Bene, qui si trova sia per alfabetico che invece per area professionali delle schede molto interessanti sulle professioni. A questo punto, una volta focalizzata la posizione ideale, si tratterà di capire quel tipo di posizione, dove la si può trovare. Spesso si corre il rischio di mandare tanti curricula ma non portando a casa nessun risultato. Vorrei sottolineare che non è importante inviare tanti curricula, è importante inviare dei curricula a quelle realtà che verosimilmente potrebbero avere la posizione che noi ricerchiamo. Quindi, per esempio, è inutile che un ragazzo che pensa a una posizione creativa invii i suoi curriculum a delle aziende medie o piccole. Farà invece bene a focalizzarsi sulle grandi o meglio ancora sulle agenzie. Chiarissimo, Luisa. Non ti chiedo come devono essere redatti curriculum e cover letter, perché ce ne siamo occupati di recente a Gio 24. Anzi, a questo proposito invito gli ascoltatori, se vogliono, a riascoltare la puntata del 2 novembre, è in internet al nostro sito radio24.it. Piuttosto, quali canali scegliere per inviare il curriculum, per farci notare? Ecco, in questo senso i canali attraverso cui promuoversi sul mercato, perché sottolineo, è poi fondamentale promuoversi, non è importante avere una storia interessante, è importante che questa storia venga conosciuta dagli interlocutori che potrebbero aver bisogno di noi. I possibili canali sono diversi: il curriculum sicuramente è lo strumento principe e poi abbiamo sicuramente la rete di conoscenze. È vero, qua si nascondono anche le raccomandazioni, evidentemente non voglio stare io a sottolineare quanto questo sia un malcostume. Quando parlo della rete di conoscenze mi riferisco soprattutto a quella rete di persone che noi conosciamo, che potrebbero essere amici, colleghi, piuttosto che anche genitori degli amici dei nostri figli, che potrebbero darci una mano per focalizzare il nostro progetto professionale. Quindi, dicevo, il curriculum, la rete, sicuramente internet è uno strumento importantissimo, utilissimo, non solo perché attraverso internet posso navigare nei principali siti di mediazione domanda e offerta di lavoro, ma anche perché posso, con delle ricerche libere, cogliere maggiori informazioni sulle aziende che possono interessarmi, piuttosto che sulle occasioni di lavoro, piuttosto che anche su eventi che possano essere di interesse. Poi abbiamo sicuramente un altro strumento interessante, sono anche le community del web, parlo per esempio di LinkedIn, ma anche di Facebook per alcuni versi, ma anche tutte le community professionali che potrebbero darmi un aiuto anche qua per entrare in una rete di conoscenze virtuali di persone che si muovono nel contesto in cui mi piacerebbe operare. Grazie a Luisa Dani. A questi suggerimenti posso aggiungere un paio di consigli che i responsabili del personale mi hanno dato in questi anni di Job 24. Loro cercano, in modo particolare nei candidati, oltre alla conoscenza dell'inglese, la disponibilità a spostarsi in Italia o all'estero. Da noi, anche tra i più giovani, c'è ancora molta resistenza a lasciare la propria città o comunque il proprio paese, invece questa disponibilità è molto apprezzata, per cui sottolineiamola nei curriculum. È davvero tutto, grazie per l'ascolto. Job 24 torna domani, stessa ora, stessa radio. Un saluto da Roberta Pellegatta. I hope, I hope, I hope, and God.